Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Dei conti, con la crisi avremo perso 160 miliardi di euro e l'Italia potrebbe aver bisogno di una maxi manovra da 46 miliardi di euro. Tafferugli davanti alla prefettura di Genova per la decisione di Fincantieri, devastato il comune di Castellammare di Stabia. Oltre 200 voli cancellati per la nube islandese, Ryanair viola il divieto con un test. La cenere dalla Gran Bretagna in arrivo sul continente. Obama, pranzo a Buckingham Palace, nel pomeriggio l'incontro con il premier britannico. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano il rapporto della Corte dei Conti sulla finanza pubblica. La magistratura contabile invita al rigore sui conti pubblici e stima che la crisi dell'economia avrà un impatto pesante sul PIL italiano, con una perdita di 160 miliardi di euro fino al 2013. Nel suo rapporto sulla finanza pubblica, la Corte dei Conti avverte anche che per rientrare nei nuovi parametri europei sarà necessaria una riduzione del debito pubblico del 3%, pari a 46 miliardi all'anno, una manovra come quella che nel 1992 consentì all'Italia di entrare nell'euro. L'intervento sui conti pubblici dovrà essere però sostenuto anche da un'adeguata strategia di crescita, altrimenti si potrebbero verificare degli effetti depressivi sulla nostra economia, avverte ancora la Corte dei Conti, secondo la quale in questo quadro qualsiasi riduzione della pressione fiscale è impraticabile. Infine il capitolo evasione fiscale, un fenomeno che vede l'Italia ancora ai primi posti in Europa, dietro soltanto alla Grecia e alla Spagna, rilevano i giudici contabili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le proteste dei lavoratori di Fincantieri all'indomani della presentazione dei tagli. Forte tensione questa mattina e Tafferugli fuori dalla prefettura di Genova durante l'incontro fra il presidente della regione Liguria Burlando e il prefetto. Sentiamo alcune voci raccolte dal nostro Andrea Ferro. Niente, sono scioccato, mi sembra che sia una giornata tristissima, è come se un mattino ti svegli e ti sembra che abbiano messo una croce rossa sulla tua città, sulla provincia. E allora si sa come si possono salvare i cantieri, questi posti di lavoro? Beh, si salvano con una lotta dura e decisa da parte di tutti i lavoratori, a partire dalla Fincantieri, Riva Trigoso, non con le divisioni e col fatto che le istituzioni genovesi, questa città, alzi la testa. Questo invece succede a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, in diretta Paolo Picone. Sì, buongiorno. La rabbia dei lavoratori Fincantieri è esplosa qui senza limiti a Castellammare di Stabia. Non appena avuta la notizia da Roma della chiusura dello stabilimento, così come previsto dal piano aziendale, che qui lascia senza lavoro complessivamente 663 persone oltre le 2000 dell'indotto, in 200 si sono diretti al municipio bloccando nei loro uffici sindaco, vice sindaco e assessori. Sono stati rotti alcuni vetri, diversi banchi del consiglio comunale, danneggiati diversi arredamenti, messi a soqquadro alcune stanze. La situazione si è parzialmente calmata dopo i colloqui con gli esponenti delle forze politiche, ma è rimasto il presidio nella sede della giunta comunale. Stamani inoltre un centinaio di operai si è diretto verso lo stabilimento e i manifestanti giurano di essere pronti a tutto. Si pianificano in queste ore nuove forme di protesta, a iniziare da quelle già messe in atto da alcune ore, cioè l'occupazione della strada statale Sorrentina, che di fatto isola completamente tutti i comuni della fascia costiera. Da Castellammare per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie a Paolo Picone. E nella notte nuove manifestazioni in Val di Susa del movimento NOTAV, contrario, come sapete, ai lavori propedeutici del tunnel della linea alta velocità Torino-Lione. Nella zona sono rimasti presidi con alcune decine di persone, come ha raccontato Sandro Plano, presidente della nuova comunità montana unica Val di Susa, Val Chisone e Val Sangone, al microfono di Cristina Carpinelli. Ma oggi è tranquillo, nel senso che le forze dell'ordine si sono ritirate, c'è questa situazione di stallo, di presidio da parte dei comitati che vogliono impedire la partenza del cantiere. Si potrà in qualche modo trovare uno sblocco questa situazione di stallo? Ma credo che sia molto difficile. Ci sono stati degli scontri violenti, ieri sera ci sono state persone ferite. Ci sono state delle sassaiole, però non mi risultano feriti. Siamo alla pagina politica. Nell'ultima settimana di campagna elettorale in vista dei ballottaggi per le amministrative di domenica. Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno, un altro video messaggio per convincere gli elettori di Milano e Napoli è quello che lancia il Premier sul sito del PDL dopo quello dei giorni scorsi. Berlusconi dice: non vogliamo un'Italia condizionata da estremisti, cattocomunismi, giustizialisti e verdi. Anzi, possiamo e dobbiamo vincere. A proposito di Milano, il Premier lancia un nuovo attacco a Pisapia. Sentiamo Berlusconi. Alla vigilia del grande evento dell'Expo non possiamo consegnare la città alle sinistre più radicali. Dobbiamo spiegare ai milanesi che un sindaco della sinistra estrema è incompatibile con l'Expo, è dannoso per i milanesi. Con l'amministrazione Pisapia aumenterebbero le tasse, spiega Berlusconi, e insiste anche sullo spauracchio di una Milano islamica. Ci sarebbero più baracche, più immigrati. Da parte del centro-sinistra critica al nuovo messaggio e agli attacchi contro gli immigrati. Sentiamo a questo proposito Leo Luca Orlando dell'Italia dei Valori. Milano è una grande città metropolitana e Milano, come tutte le città metropolitane del nostro paese, merita rispetto e non merita queste barzellette di cattivo gusto di un dittatore che capisce che il tempo suo è finito. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E fra poco al via le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi parlamentari in vista del voto di fiducia alle 15, voto sul decreto legge Omnibus che contiene fra l'altro le misure sul nucleare che eviterebbero il referendum. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il governo blinda dunque con la fiducia il provvedimento Omnibus. Tra poco meno di un'ora inizieranno le dichiarazioni di voto, si passerà quindi alla cosiddetta chiama individuale, il via libera finale all'intero provvedimento ci sarà domani. Il testo contiene anche le norme che bloccano il ritorno al nucleare nel nostro paese e che, se approvate, dovrebbero evitare il relativo referendum del prossimo 12 e 13 giugno. Il ricorso alla fiducia da parte del governo si è reso necessario dopo le difficoltà incontrate in aula la scorsa settimana. In più, si vuole evitare che arrivino sorprese visto il malumore dei responsabili, le tensioni con la Lega e l'assenza di alcuni esponenti del PDL impegnati nelle amministrative. Critiche dall'opposizione, Bersani parla di scippo fatto al popolo italiano rispetto alla possibilità di decidere sul nucleare. Il Popolo della Libertà respinge però questa tesi. Le norme sul nucleare sono state espressamente abolite dal decreto, spiegano Baldelli e Calderisi. Resta intanto davanti a Montecitorio il presidio del comitato promotore del referendum su nucleare e acqua. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Porre un limite al doppio stipendio per i parlamentari è la domanda che vi abbiamo posto oggi nel nostro sondaggio. Siete d'accordo? 94% di voi ha risposto di sì, il 6% invece ha risposto di no. Veniamo alla nuova nube vulcanica islandese. La Commissione europea non prevede la chiusura dello spazio aereo sull'Europa, ha reso noto il commissario europeo ai trasporti Siim Kallas, anche se ritiene che ci sarà ancora una settimana difficile per passeggeri e linee aeree. 252 voli già annullati, per lo più in Scozia. Misure troppo restrittive, protesta Ryanair che ha sfidato i divieti effettuando un volo test nella zona rossa. Eurocontrol, l'agenzia responsabile del traffico aereo in Europa, stima possibili ritardi su voli intercontinentali, avverte che la cenere che ha già raggiunto la Gran Bretagna arriverà presto anche su Olanda, Danimarca e la parte settentrionale della Germania. Poco fa anche la notizia che la squadra di calcio del Barcellona ha anticipato ad oggi la partenza per Londra, dove sabato disputerà la finale di Champions League. In Italia invece situazione regolare, come ci conferma il presidente dell'ENAC Vito Riggio, lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Al momento noi non abbiamo nessuna evidenza di un peggioramento delle condizioni, nel senso che la nube si è spostata questa mattina sull'Inghilterra e la previsione è che possa arrivare, se continua l'eruzione, i venti vanno in quella direzione, anche sulla Francia e la Spagna. Per quanto riguarda l'Italia non abbiamo ancora nessuna previsione di questo tipo. Purtroppo in questi casi non c'è che da monitorare e dall'altra parte prepararsi. Noi abbiamo già tutta una serie di procedure messe in piedi sulla scorta dell'esperienza dello scorso anno ed anche qualche macchina da utilizzare nell'ipotesi per misurare la effettiva densità della cenere. Ci sono solo alcuni aeroporti della Scozia chiusi, tutti gli altri sono aperti. È ovvio che se dovessero chiudere scatteranno delle procedure diverse per aggirare, se è possibile, i banchi di cenere o per fare dei controlli, ma insomma quest'anno non dovremmo andare verso chiusure generalizzate, salvo che la intensità della cena non sia tale da sconsigliare assolutamente il volo. Ryanair ha deciso di sfidare il divieto, ha condotto un volo test di un'ora sulla Scozia nella cosiddetta zona rossa. Che cosa ne pensa? Io penso che prima o poi sarà bene che le autorità irlandesi, da cui dipende Ryanair, si pongano il problema di questa continua buffoneria che non ha niente a che fare con un corretto esercizio dell'industria aeronautica. Purtroppo noi non siamo responsabili, dipendesse da me gli toglierei immediatamente la licenza. L'agenzia di rating cinese Dagong ha abbassato il giudizio sul debito sovrano della Gran Bretagna da AA- ad A+, a causa della bassa prospettiva di crescita del paese e dell'alto livello del debito pubblico. E secondo Dong Xianan, capo economista di Peking First Advisory, è infondata la decisione di Standard & Poor's di abbassare l'outlook sul rating dell'Italia a negativo. Il commento di Alberto Forchielli, direttore dell'Osservatorio Asia. La guerra del rating tra la Cina e il mondo occidentale è in atto da diverso tempo. Il mondo del rating è dominato da tre agenzie di stampo anglosassone e i cinesi trovano che sia intollerante, essendo di fatto l'Asia diventato il primo investitore mondiale internazionale. La SEC americana, che sarebbe la Consul americana, ha negato a Dagong, la principale agenzia di rating cinese, l'accesso al mercato americano. Qualche mese dopo il debito americano è stato declassato. Notizia di oggi che i cinesi hanno difeso il rating del debito italiano considerandolo eccellente e Dagong stessa ha svalutato il rating del debito inglese. Quindi la guerra è in atto tra l'Oriente e il mondo anglosassone, l'Italia sta in mezzo, ma tutto sommato abbiamo le spalle coperte perché l'Oriente sembra essere con noi. L'appuntamento è per le 14.15, le 20.15 in Italia, allo stabilimento in Michigan, dove è assemblata la nuova berlina Chrysler 200. Il colosso di Detroit, parte del gruppo Fiat, oggi annuncerà il rimborso del prestito che il governo statunitense e quello canadese avevano fatto per evitare il collasso durante la crisi economica. Andrea Malan, collega del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Una giornata molto importante questa. Una giornata importante, direi, a meno di 2 anni dalla uscita di Chrysler dal fallimento pilotato, sancisce diciamo la fine della prima fase del risanamento e vedrà sempre oggi appunto l'arrivo di Fiat al 46%. Una parte dei soldi, ricordiamo, che Chrysler utilizzerà per rimborsare i debiti vengono da un aumento di capitale riservato a Fiat con il quale appunto il lingotto acquista la quota addizionale. Da oggi Fiat potrà consolidare Chrysler, i conti del gruppo. Quindi diciamo che le due aziende sono ancora più vicine. Sempre oggi, con una coincidenza, qua a Torino vi è presentata per il lancio sul mercato il mese prossimo la Lancia Y, che non è ancora un prodotto di una progettazione congiunta tra Fiat e Chrysler, ma verrà per esempio già venduta su alcuni mercati anche europei con il marchio Chrysler a simboleggiare quindi la sempre più stretta relazione tra le due aziende. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato del rapporto della Corte dei Conti. Con la crisi avremo perso 160 miliardi di euro. Tremonti poco fa, forse la crescita non è sufficiente, ha detto, ma senza la tenuta di bilancio non ci sarebbe stata neanche questa insufficiente crescita. Italia, la Fincantieri, tafferugli davanti alla prefettura di Genova, devastato il comune di Castellammare di Stabia. E poi oltre 200 voli cancellati per la nube islandese. Ryanair viola il divieto con un test, la cenere dalla Gran Bretagna in arrivo sul continente. E ripartiamo dal viaggio del presidente americano Obama in Europa. Dopo l'Irlanda, ora è la volta della Gran Bretagna. Poco fa Obama è arrivato a Buckingham Palace, dove vedrà la regina, poi vedrà invece il premier britannico David Cameron. E tra l'altro Barack Obama è stato fra le prime vittime dei disagi che la nube sta provocando. Infatti ha anticipato ieri sera il suo viaggio a Londra, partendo prima dall'Irlanda. Stati Uniti e Regno Unito saranno al fianco dei protagonisti della primavera araba, è quanto scrivono il presidente Obama e il premier britannico David Cameron in un articolo pubblicato oggi dal quotidiano britannico Times. È durato oltre 20 minuti il raid della NATO che questa notte ha preso di mira una caserma militare poco distante dal bunker di Muammar Gheddafi a Tripoli. Sarebbero almeno 3 i morti, 150 i feriti. Intanto una psicologa libica denuncia sulla CNN, centinaia di donne raccontano di essere state stuprate dai soldati di Gheddafi. I palestinesi non proclameranno unilateralmente uno Stato indipendente, lo ha dichiarato un responsabile del movimento palestinese Fatah Azam al-Ahmad in una conferenza stampa. Di errore storico parla invece Hamas. Oggi, atteso il discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu al congresso a Washington. E si è aperta questa mattina alle porte di Parigi una sessione del G8 tutta dedicata ad Internet. Sono i giardini delle Tuilerie ad unire il passato con il futuro, la storia e le regole che conosciamo sul diritto d'autore e la libertà d'espressione con il nuovo equilibrio della rete. Ad avere voluto questo EG8 è stato il presidente Sarkozy, che chiama Internet una rivoluzione. Non laissez pas la révolution que vous avez lancée. Un'idea che rientra nell'attivismo della Francia in campo internazionale, ma alla quale va riconosciuto il merito di riunire circa 1000 protagonisti della nuova economia digitale per discutere di privacy, governo, neutralità della rete, pirateria e crimini digitali, per tentare di mettere in equilibrio gli interessi degli utenti con quelli delle aziende e dei governi. Il compito è difficile e probabilmente servirà a poco l'eventuale dichiarazione finale che scaturirà dal forum e verrà inviata ai capi di Stato e di Governo riuniti da giovedì per il G8 a Deauville in Normandia. Così come a poco sono serviti finora gli incontri dell'Internet Governance Forum organizzati dalle Nazioni Unite. Il sesto andrà in scena in settembre a Nairobi. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 ore. Ed ora andiamo a Bruxelles per la settimana verde europea, come ci racconta la nostra inviata Laura Bettini. Buongiorno da Bruxelles, dove si aprirà tra poco meno di un'ora la Green Week, la settimana verde della Unione Europea. Il tema di quest'anno è quello della efficienza, non solo energetica, ma in tutti i campi. Usare meno per vivere meglio, recita lo slogan. Nelle varie sessioni di lavoro si analizzeranno i problemi derivanti dalla scarsità o dal cattivo sfruttamento delle risorse, come dicevamo, non solo quelle per produrre energia, ma anche quelle più immediate come aria, acqua, terra, cibo, e si esamineranno le possibili soluzioni, quelle già adottate in singoli paesi dell'Unione o quelle che insieme l'Europa potrebbe decidere di adottare. E non a caso i lavori li aprirà il commissario europeo per l'ambiente Potocnik con un intervento sulle responsabilità europee nella gestione delle risorse. Ma le sessioni, come si diceva, sono numerose, si parlerà di produzione e spreco del cibo, di rifiuti e riciclo, di gestione delle risorse idriche, di lavori verdi, insomma di tutto quello che possiamo fare per noi stessi, per l'ambiente in cui viviamo e, perché no, anche per il bene delle nostre economie, perché sprecare non è mai un vantaggio economico. Per il momento è tutto, a voi la linea. E grazie a Laura Bettini. Con me tu puoi fumare la tua pipa quando vuoi, perché mi piaci molto di più. Addio a sigarette e pipe a New York. Da oggi nella Grande Mela non si può più fumare neanche a Times Square o a Central Park. È entrata infatti in vigore la nuova normativa voluta dal sindaco della città Michael Bloomberg, che rafforza ulteriormente le già rigorose norme antifumo in città. Potrà prendersi una multa da $50 chi verrà trovato con la sigaretta accesa in uno dei 1700 parchi comunali cittadini e sui quasi 30 chilometri di spiagge del litorale newyorkese. Torniamo in Italia invece parlando di scuola. Cambiano infatti le preferenze degli studenti. Il 49,2% dei nuovi iscritti alle superiori sceglie il liceo, con una crescita del 3% rispetto all'anno scorso. Aumentano anche gli iscritti agli istituti tecnici, mentre diminuiscono quelli ai professionali. Romolo Napolitano ha sentito il professor Andrea Cammelli, responsabile delle ricerche sui diplomati dell'Alma Laurea. I giovani che escono dagli studi professionali, in particolare, al termine degli studi dichiarano di aver fatto una scelta che non li convince del tutto. Evidentemente fanno fatica ad apprezzare l'insegnamento che viene loro impartito, hanno altre ambizioni. Cosa si può fare per aiutare i ragazzi a scegliere? Naturalmente la scelta è molto difficile, si capisce, in famiglia difficilmente si riesce a ottenere indicazioni chiare, coerenti, fondate per aiutare il ragazzo a scegliere. La scuola dico secondaria di primo livello non ha competenze particolari su questo terreno e quindi occorre investire di più in sostanza in un orientamento che sia fondato sui risultati delle indagini che mettono in luce aspetti di grande dico, rilevanza e che aiuti il ragazzo a compiere questo percorso. Su questo terreno ci sono molte iniziative, molte proposte, ma mi pare che manchi ancora un discorso unitario, un discorso molto serio, molto fondato, che aiuti i ragazzi a evitare di sbagliare il percorso. Fino al 7 agosto al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, live, l'arte incontra il rock a cura di Luca Beatrice e Marco Bazzini. In mostra gli artisti più rappresentativi del panorama musicale mondiale e le opere d'arte che ricreano il fascino subito dalle loro note. Luca Beatrice al microfono di Adriana Fracchia. La mostra racconta come l'arte contemporanea, un linguaggio quindi diciamo un po' più elitario, e invece la musica rock, che è una forma estremamente popolare che riguarda tantissime persone, si sono incontrate tante volte, soprattutto negli ultimi 40 anni, a partire dal 1969, che è un po' l'anno in cui noi ci siamo dati così come punto di partenza, ultimo concerto dei Beatles, mega raduno di Woodstock e soprattutto concerto tragico dei Rolling Stones ad Altamont. Lo stesso anno Harald Zeman realizza forse la prima mostra con una grande impronta curatoriale di arte contemporanea, la mostra When Attitudes Become Form. Insomma, una carrellata in 40 anni di così, relazioni pericolose in cui secondo noi i punti di contatto sono più che non le differenze. Poi andando avanti con gli anni noi abbiamo altre esperienze, non so, mi vengono in mente i Sex Pistols nel 1977 che distruggono in pratica la forma del rock e lo fanno diventare qualcosa di estremamente duro, violento, insomma il punk è una mossa che si chiama bad painting, quindi anche la pittura diventa cattiva. E vi lascio allo speciale giro, GR24 invece torna alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.